ci fu un diluvio detto universale, che il Padre Eterno mandò sulla terra, perché la gente si faceva guerra e non pensava altro che a far male. Salvò solo Noè e la sua famiglia, dicendogli: avete fatto il bene, così che voi non passerete bene all'antro in accidente che gli piglia. Poi metti insieme coppie d'animali, così che ci rigovolano il mondo, de qua e de là per quanto è grosso e tonno, e da rifarlo bello senza eguali. E poi c'ho sempre sto pensiero in testa, una chicca come un fiore nell'occhiello, da di che adesso è veramente bello, che tutti quanti ci faranno festa. Così plasmò la creta con le mani, prese la puzzolana e il travertino, la carce fresca e il marmo fino fino, e fece Roma insieme i romani. E quando un giorno poi li vide tristi, senza televisione e senza radio, intorno a un campo fabbricò uno stadio, la S Roma con i romanisti. Dicono che questa storia non è vera, e l'invidia, amici miei, è una cosa brutta, ma il Colosseo, San Pietro e via Margutta e so fiori dell'eterna primavera. Sverti di lingua e lesti con le mani, forse per questo siamo i più marvisti, però non siamo farsi né razzisti. Che ci volete fare? Siamo romani.